Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. E poi c'è la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video. Se volete potete commentare anche là, anche i messaggi che scrivete là leggeremo. Di che cosa parleremo oggi? Allora, apriremo con la siccità. Lo sapete, anche perché lo vivete sulla vostra pelle. Fa caldo, fa molto caldo, stiamo raggiungendo questa, probabilmente alcuni dicono che sia la settimana più calda dell'anno. Di certo in alcune zone di questo paese non piove da molto. Ieri il ministro Martina ha indicato in 11 il numero delle regioni che si preparano a chiedere lo stato di calamità. Il governo valuterà ovviamente, quando questo stato di calamità verrà richiesto, se concederlo oppure no. C'è però un tema che riguarda l'agricoltura e riguarda appunto la siccità, l'assenza di acqua. Sono molte le questioni che si intrecciano qua. Innanzitutto una di pura cronaca, ossia il cercare di capire che cosa succederà alle nostre coltivazioni quest'anno. Già prima dell'estate avevamo denunciato, avevamo raccontato che ci sono intere coltivazioni italiane che rischiano di andare perdute, grandissime percentuali per esempio delle coltivazioni di kiwi, dei quali siamo grandissimi produttori, non tutti lo sanno, ma siamo grandissimi produttori di kiwi e anche altra frutta e altra verdura. Ma al di là di questo, al di là dei dati di stretta cronaca, c'è una questione più generale ed è la questione delle nostre reti idriche. Riassumeva bene qualche giorno fa sul Sole 24 Ore Giorgio Santilli, in un commento dedicato proprio a questo tema, raccontava questo mito del 40% di dispersione idrica. Abbiamo una dispersione idrica molto alta, ma in realtà questo è un paese nel quale non sappiamo nemmeno esattamente quale sia la dispersione idrica, perché ci sono i conti dell'Istat, ci sono i conti dei gestori, mancano i conti dell'autorità di regolazione, che pure dovrebbe essere l'unica titolata a fornire questi dati. Di certo il punto è che abbiamo evidentemente una dispersione idrica alta, particolarmente forte nel mezzogiorno, un po' meno pronunciata al nord, piuttosto forte anche al centro, e di fatto è anche per questo che viviamo le difficoltà di queste ore, e non solamente perché non piove evidentemente, ma perché come al solito non siamo previdenti. Di questa dispersione idrica parliamo ormai da 20 anni e si fatica a intravedere una soluzione. Ci occuperemo dei conti delle banche, quelli delle due grandi sono arrivati, l'altro ieri Intesa e oggi Unicredit, e faremo un punto su queste due banche. Sarà anche l'occasione per fare un minimo di riflessione dopo quest'anno piuttosto intenso per il sistema bancario italiano, una situazione che il ministro dell'economia Piercarlo Padoan in un'intervista oggi al Sole 24 Ore giudica a questo punto un po' più tranquilla nel complesso, e torneremo a fare un punto su questo. Ci occuperemo ancora della vicenda Fincantieri, o meglio non proprio della vicenda Fincantieri. Vi avevamo già raccontato nella giornata di ieri come il focus si stesse un po' spostando su quelle che sono più in generale le partite tra Italia e Francia, e nella fattispecie il controllo di fatto esercitato da Vivendi su Telecom Italia. Vi abbiamo anche raccontato ieri che il governo sta valutando se utilizzare il Golden Power. Che cos'è il Golden Power? È una possibilità di intervento da parte dell'esecutivo per le imprese o i settori che il governo richiede e ritiene in qualche modo strategici. Nella fattispecie si parla della rete di cavi di Telecom Italia, quindi non solamente una cosa che non riguarda solamente le telecomunicazioni, ai sensi delle normative europee sarebbero escluse dal cosiddetto Golden Power, ma riguarderebbe a questo punto anche la difesa, evidentemente interessi strategici più ampi, e faremo il punto anche su questo. Visto che siamo sull'industria, ci occuperemo anche dell'ipotesi che viene raccontata oggi dal Sole 24 Ore della creazione di un grande polo chimico sotto la regia della Cassa Depositi e Prestiti. L'obiettivo della realizzazione di questo grande polo chimico è cercare di creare un grande player, come si dice, un grande giocatore sullo scenario mondiale che possa contendere, se non il primato, quantomeno i mercati, a una serie di altre aziende straniere, a partire da quelle tedesche, ma passando anche per quelle asiatiche, che si fanno sempre più intraprendenti. Il FTSE MIB va bene, guadagna un punto percentuale, il FTSE O'Share lo 0,85%, un po' peggio fa Parigi, che guadagna lo 0,60%, Francoforte, che cede lo 0,15%, Londra guadagna lo 0,9%, l'America è positiva, con il Dow Jones a questo punto quasi stabilmente sopra i 22.000 punti, guadagna lo 0,07%, lo Standard & Poor's 500 in lieve calo dello 0,11%. A dominare il listino, e anche di questo evidentemente parleremo dopo quando toccheremo il tema delle banche, è UniCredit, che in questo momento guadagna il 7,5%. Abbiamo anche in recupero Ferrari rispetto a ieri, più 2,06%, Popolare Emilia Romagna più 1,89%, Mediaset più 1,3%, Uxnet a Portel 1,3%, Mediobanca l'1,24%, in fondo all'Isino Tenaris che cede il 6,8%, Poste il 2,4%, Campari il 2,07%, Prismian l'1,5%, Fineco che cede lo 0,94%. Le notizie in breve di oggi. Rassicuro gli amici ascoltatori 5 Stelle, oggi non parleremo di Roma e di Virginia Raggi, così state tranquilli, perché già sono arrivati quei 2-3 messaggi consueti, come quello di lunedì, che ci ha detto che stiamo gettando fango sulla Raggi prima ancora che parlassimo dell'ATAC. Io non so se c'è qualcuno che vi telefona e vi dice: a Focus Economia hanno annunciato che parleranno dell'ATAC, mi raccomando, manda un messaggio, e poi però non ascoltate la trasmissione, lo mandate senza nemmeno ascoltare. Basta, chiudiamola qua, va. Oro in calo dello 0,3% a $1,268 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, abbiamo una lieve risalita, un più 0,2% a $49,7 al barile per il WTI. Per quanto riguarda il Brent, siamo a $52,7 al barile. Per quanto riguarda l'economia internazionale, iniziamo da Trump. Il nostro rapporto con la Russia è ai minimi di sempre, in maniera pericolosa, dice il presidente degli Stati Uniti. Potete ringraziare il Congresso, gli stessi che non possono nemmeno darci la sanità. Come avrete intuito da come l'ho letto, è un tweet e non è una dichiarazione pubblica. Il presidente degli Stati Uniti ha anche presentato una proposta elaborata da alcuni senatori repubblicani per cambiare il sistema di immigrazione legale. La riforma più significativa in mezzo secolo, dice, perché ridurrà la povertà, incrementerà i salari e farà risparmiare miliardi di tasse ai contribuenti. La legge prevede nuovi limiti e nuovi criteri per gli ingressi legali negli Stati Uniti, favorendo chi parla la lingua inglese e ha mezzi di sostentamento. La situazione dal Venezuela ci dice che il presidente venezuelano Maduro respinge le accuse di brogli nel referendum per la riforma della Costituzione e annuncia che si va avanti. L'opposizione ha deciso di rinviare le proteste. La Procura Generale ha aperto un'inchiesta sui brogli. Il presidente brasiliano Temer ha salvato, e restiamo in Sud America, ha salvato ieri il suo incarico. Ci sono delle accuse di corruzione nei confronti di Temer, la vicenda va avanti da un po' di tempo. C'era la proposta di una procedura di impeachment nei confronti del presidente brasiliano, invece ha ottenuto una larga maggioranza alla Camera Bassa del Parlamento, Camera Bassa che doveva esprimersi appunto sull'eventuale rinvio del capo dello Stato davanti alla Corte Suprema. L'opposizione aveva bisogno di mettere insieme i 2/3 dei voti, 342 su 513. Un totale di 263 deputati si è pronunciato contro l'apertura di un processo, contro i 227 favorevoli e 2 astensioni. Da dire, ovviamente il presidente Temer è soddisfatto. Da dire che, secondo alcune notizie o almeno alcune analisi raccolte nelle scorse ore da alcuni media di informazione indipendenti brasiliani, nelle ultime settimane il governo del presidente Temer aveva iniziato, come dire, ad elargire in giro un po' di denaro, non inteso come corruzione, ma stabilendo che si potessero dare un po' più di fondi nei collegi elettorali dei parlamentari più incerti, insomma, distribuire qualche fondo in giro per assicurarsi il voto in Parlamento. Per quanto riguarda i cambi, abbiamo la sterlina ai minimi da 9 mesi sull'euro, la moneta britannica cala 0,9042, pesa il taglio delle stime di crescita, come avete sentito però il mercato, quantomeno la borsa, non sembra risentirne. Parla il governatore della Bank of England, Mark Carney, dice: l'incertezza prodotta dalla Brexit sta già pesando sull'economia britannica e ha ridotto la propensione agli investimenti della società. Altra banca centrale, la nostra, la BCE, dice: la ripresa continua ad essere robusta e generalizzata nell'area dell'euro, con un protratto rafforzamento dell'espansione economica, ma il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli, è ancora necessario. Per quanto riguarda l'Italia c'è la lunga intervista che vi consiglio tra l'altro di andare a leggere al Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan al Sole 24 Ore, il quale chiarisce che la manovra avrà risorse molto limitate e dovrà puntarle tutte su giovani e lavoro. Che la direzione potesse essere questa, a dire la verità, si era già intuito, e però appunto le risorse sono molto limitate, dice Padoan. Indica le priorità di fine legislatura: un taglio permanente del cuneo fiscale per le assunzioni stabili dei giovani. Parla del fiscal compact, e sul veto dice: meglio puntare su una politica europea per la crescita e gli investimenti. Invoca parità di trattamento per le nostre aziende che investono all'estero, in riferimento alla vicenda Fincantieri. I dati di Unicredit, e adesso poi ci arriveremo, nel semestre utile netto 1,9 miliardi, nel secondo trimestre 945 milioni, batte le attese e abbatte il profilo di rischio nel secondo trimestre, ossia le esposizioni deteriorate lorde, le sofferenze, si riducono a 53 miliardi, in ribasso di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. infine una notizia che interesserà molti, molti di voi, molti di noi che viaggiano in treno. Perché l'antitrust ha sanzionato con il massimo edittale, ossia la massima possibilità di multa che ha in questo caso, 5 milioni di euro nella fattispecie, Trenitalia. Perché? Perché la società ferroviaria avrebbe escluso dai propri sistemi di prenotazione alcune soluzioni sui treni regionali, generalmente più economiche. Il garante ha accertato che l'insieme di soluzioni di viaggio proposte sulle emettitrici self-service o sulle app omette molte soluzioni con i treni regionali, anche se si trattano di alternative sostituibili a quelle mostrate, alterando in questo modo la scelta del consumatore e sostanzialmente facendogli spendere di più. Veniamo al primo tema di questa giornata, che è la siccità. Dunque, la siccità, parlavamo prima del tema della dispersione idrica, ci dice un ascoltatore che cosa c'entra con la siccità. Beh, c'entra evidentemente, no? Se l'acqua nei tubi, invece di arrivare agli utenti finali, finisce, che ne so, dispersa sottoterra perché il tubo è rotto o cose di questo genere, beh, insomma, sarà pure un problema quello, insomma. Avrà a che fare col fatto che non abbiamo abbastanza acqua, per esempio, per i nostri campi. E fatemi solo leggere, visto che tanto abbiamo parlato in questi giorni di Roma, eccetera, eccetera, il WhatsApp di un ascoltatore dice: è da 10 anni che sono attivista 5 Stelle, continuate così, vi apprezzo. Almeno qualcuno che riconosce che cerchiamo di fare informazione imparziale. Siamo in piena ondata di caldo, 26 capoluoghi da bollino rosso, temperature su livelli record fino all'inizio della prossima settimana, nelle grandi città un più 15% di richieste al pronto soccorso. E sono 11 al momento le regioni che si apprestano a richiedere lo stato di calamità per la siccità. Torna da noi Massimiliano Giansanti, che è presidente di Confagricoltura. Buonasera presidente, benvenuto. Grazie, buonasera a voi. Immagino che questa settimana non possa far altro che peggiorare la situazione. Sto passando la settimana a rispondere al telefono a tutti gli amici agricoltori di Confagricoltura e non solo, e ai presidenti dei miei territori che mi segnalano grandi stadi di disagio dell'agricoltura italiana in tutte ormai le regioni d'Italia. E questi gravi stati di disagio, presidente, a cosa portano? Avete già qualche idea, qualche numero? Penso soprattutto ovviamente ai raccolti, su che cosa andremo a perdere quest'anno? Guardi, abbiamo appena terminato le raccolte dei cereali italiani. In base alla produzione, quindi su 100 italiani, 30 quest'anno non mangeranno grano italiano per il semplice motivo che non siamo riusciti a produrlo, quindi abbiamo avuto perdite del 30%. Altrettanto la perdita prevista è prevista sul settore vitivinicolo, quindi anche sui grandi vini questo caldo anticipa molto la vendemmia e si temono delle riduzioni importanti, sia per il caldo che ovviamente per gli effetti del gelo di fine aprile e primi giorni di maggio, perché noi in pochi mesi siamo passati dal freddo e dal gelo al caldo torrido, quindi una stagione da dimenticare per l'agricoltura italiana. Questo per quanto riguarda anche il settore vitivinicolo, suppongo anche per la frutta e verdura? Frutta, verdura, pomodoro da industria, considera noi siamo straordinari produttori di pomodoro da industria, esportiamo il pomodoro nel mondo. Il pomodoro quest'anno ha iniziato la raccolta con almeno 15 giorni di anticipo, terminerà con 15 giorni di anticipo e soprattutto nelle grandi zone di produzione del nord Italia, sì. La mancanza di acqua si è fatta sentire, stiamo sì. parlando di colture industriali. Sì, tra l'altro Presidente, la interrompo per dire che è proprio il luogo nel quale è scattato per primo, no? È stato dato per primo lo stato di calamità, è esattamente la zona del cosiddetto triangolo del pomodoro, no? Tra Parma e Piacenza, perché noi tendiamo a ritenere che il pomodoro, almeno come dire, culturalmente a ritenere che il pomodoro si coltivi soprattutto al sud, in realtà gran parte del pomodoro italiano arriva esattamente da quelle zone che sono in una condizione disastrosa. Beh, sono due zone tipicamente le zone tipiche di produzione. Una è la zona di Parma, Piacenza, Ferrara, dove abbiamo buoni sistemi di canali di irrigazione, ma dove la mancanza di acqua nei grandi bacini non ci ha permesso di irrigare. E poi abbiamo la zona del sud Italia, la zona del Foggiano, dove invece lì abbiamo perdite sistematiche di acqua negli acquedotti, e quindi anche questo ha messo in forte difficoltà ovviamente gli agricoltori a poter utilizzare l'acqua. Che poi pensate che l'acqua che si usa in agricoltura ritorna nell'ambiente, ritorna nel circuito, perché noi quello che utilizziamo poi ritorna nell'ambiente, quindi non la disperdiamo noi agricoltori. Il problema è che si disperde per arrivare in azienda agricola. Che è esattamente quello che stavamo cercando di spiegare ai nostri ascoltatori, dicendo quando parliamo di siccità certamente, ma parliamo anche di problemi che possono essere, se non affrontati completamente, quantomeno attenuati nel momento nel quale c'è un sistema idrico che regge, no? Penso che questo sia un dato ormai di fatto. Considerate il 19% della superficie agricola italiana garantisce il 60% della produzione lorda vendibile, quindi un quinto del territorio riesce a soddisfare il 20% della produzione, quindi vuol dire che l'utilizzo dell'acqua è fondamentale nelle attività agricole. Sarà però altrettanto importante adesso spingere molto, dopo anni in cui ce lo diciamo, sono anni che lo raccontiamo, di grandi politiche infrastrutturali. Apprezziamo adesso questa ulteriore politica di indirizzo data dal Ministro Martina su questi 700 milioni sulle politiche degli invasi e non solo. Ecco, però è arrivato il momento che al di là, oltre che dirlo, dobbiamo farle, e quindi vanno realizzate le grandi opere che possono consentire all'agricoltura italiana di non soffrire in un'annata come questa di quest'anno, tanto più che ormai il cambiamento climatico ormai credo che porterà purtroppo la nostra Italia a doversi confrontare negli anni a venire con forti oscillazioni del tempo e del meteo. Sì, ci sono anche timori, immagino, Presidente, qua ce lo scrive un ascoltatore, dice tra poco iniziano i temporali, in due giorni cadrà l'acqua di 12 mesi, immagino che ci siano timori anche da questo punto di vista tra i vostri associati, no? Assolutamente sì, è successo qualche giorno fa nella zona di Alessandria, in una notte si è abbattuto un forte ciclone di piogge, il Grandine, ha fatto danni incalcolabili. Purtroppo, ecco, ormai il cambiamento climatico è questo, si passa dalla pioggia alla Grandine ai 40 gradi, e tutto ciò ovviamente per chi lavora a cielo aperto come l'agricoltore fa fatica a poter mettere sotto protezione, al di là delle polizze assicurative, ma facciamo fatica noi a confrontarci ovviamente con un meteo che sta cambiando velocemente. Io la ringrazio, grazie per essere stato con noi, al presidente di Confagricoltura, appunto Gian Santi, che ci ha aiutato a fare un quadro complessivo della situazione. Come si diceva, i dati della dispersione ci raccontano, almeno quelli che conosciamo, come si diceva e come dicevo in apertura, anche sulla base del servizio firmato da Giorgio Santilli qualche giorno fa sul Sole 24 Ore, insomma, in realtà di dati proprio certissimi non ne abbiamo. Di certo sappiamo che c'è una grande dispersione, di certo sappiamo che ogni tot viene promesso o un piano di investimento o ci si lamenta senza, come dire, fornire una particolare soluzione. Poi c'è in mezzo, e certo, e qualche ascoltatore ce lo ricorda giustamente, c'è in mezzo stato anche il cosiddetto referendum per l'acqua pubblica, al quale alcuni imputano di aver sostanzialmente bloccato gli investimenti nella rete. Come si diceva, per quel che sappiamo, i dati della dispersione ci indicano 9 miliardi di litri di acqua ogni giorno a causa delle perdite lungo la rete, una rete di 474 mila chilometri di acquedotti. E il dato che viene fornito molto grossolanamente, e che varia da regione a regione, varia ovviamente da zona a zona dell'Italia, è più o meno del 40%, lo ripetiamo, è un dato che va preso con le pinze. L'Istat indica un 38%, ma al netto delle morosità indica un 35%. Comunque sia, è evidentemente tanto, perché ci sono regioni che fanno molto bene e quindi si può fare bene, e ci sono regioni evidentemente che fanno male. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa, appunto, il meteo, sentiamo come va, come vanno le cose dal punto di vista delle temperature, poi ci ritroviamo, parliamo di borse e di banche. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, e se volete potete scriverci anche là. A proposito di acqua, ci scrive un ascoltatore: secondo voi, dati gli ormai certi cambiamenti climatici, l'Italia, ci chiede se l'Italia dovrebbe cominciare a produrre altri tipi di prodotti agricoli. Sinceramente, quello che penso io è che l'Italia dovrebbe iniziare a risolvere alcuni problemi prima che arrivi l'emergenza. Ce lo scrive un altro ascoltatore via sms, dice: sono un ingegnere civile, ci hanno insegnato che il 30-40% quando ho studiato 25 anni fa della portata idrica distribuita andava persa per le perdite fisiologiche. Quello che reputo criminale è che, pur sapendolo, in questi anni non si è fatto nulla per rendere queste reti idriche più efficienti, e il tema è esattamente là. Insomma, saremo anche stanchi a un certo punto di vivere in un paese nel quale deve esserci San Giuliano di Puglia per accorgerci che le scuole non sono costruite bene, che deve esserci la tragedia ferroviaria dell'anno scorso in Puglia per scoprire che i sistemi di controllo non funzionano. Cioè, non so, ci svegliamo sempre un po' dopo, ecco. E poi ci mettiamo molto a risolvere i problemi. Prima di andare ai mercati e prima di parlare di banche, abbiamo ancora una coda che in realtà ci sembra una coda della vicenda Fincantieri STX, ed è la questione di Telecom Italia e di TIM. Allora, pur con una tempistica per così dire tutta particolare, perché è iniziato tutto prima dell'incontro con tra Padoan, Calenda e il ministro francese, cioè il lunedì è partita la richiesta di Calenda e ieri si è avuta notizia dell'apertura dell'istruttoria del governo. Insomma, sta partendo una verifica sul controllo da parte di Vivendi di Telecom Italia, con sullo sfondo la possibilità di utilizzo del cosiddetto Golden Power, ossia quando hai un'impresa che ritieni strategica, insomma, puoi far valere le tue ragioni come governo. La dico molto semplicemente e molto brutalmente. Meglio di me lo saprà dire Antonella Olivieri del Sole 24 Ore. Ciao Antonella, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, come dire, non è una mossa di ritorsione, nel senso che Calenda, Padoan, tutti quanti dicono no, sembrano voler dire non siamo all'asilo Mariuccia, però l'idea che proprio in questo momento si intervenga sul controllo di Vivendi su Telecom forse un significato lo ha, no? Guarda, io uscirei un attimo dal campo della dietrologia per tornare indietro ai fatti, nel senso che il 27 luglio c'è stato un consiglio d'amministrazione di Telecom nel quale, a sorpresa, Vivendi ha dichiarato che iniziava l'azione di direzione e coordinamento su Telecom. Vuol dire, formalmente Telecom è diretta e coordinata da Parigi, ed è la prima volta che formalmente perde la sua indipendenza da quando è privata. Non era stato così con Colaninno, non era stato così con Tronchetti, non era stato così con Telco, è così oggi con Vivendi. Quindi quel giorno era lo stesso giorno in cui la Francia aveva annunciato la nazionalizzazione dei cantieri navali francesi, o almeno che avrebbe esercitato la prelazione sulla consentita dallo statuto della STX. Allora, chi ha iniziato prima a mischiare le due cose, certo, qualche dubbio certo potrebbe anche venire, se vogliamo sì proprio fare dietrologia. Sì. In ogni caso, si potrebbe anzi dire che la reazione è stata un po' tardiva, perché se il 27 c'è stata la dichiarazione e il 31 si è posto il problema, non è tanto che il governo italiano l'ha voluto mettere in relazione, forse ha anche reagito con qualche giorno di ritardo Rispetto a quanto non avrebbe dovuto fare. Adesso che si è opinabile, nel senso che a sentire i legali dei francesi loro non dovevano dichiarare un bel niente, nel senso non dovevano notificare un bel niente, infatti non l'hanno fatto. Però ovviamente l'opinione del governo italiano sembra essere diversa, anche se naturalmente su questo è aperto un'istruttoria. Che cosa può fare il governo praticamente, Antonella? Allora, dunque, anche qui bisogna ricordare che questa legge del Golden Power era praticamente un qualcosa che doveva sostituire la Golden Share. E questo perché non era più ammissibile a Bruxelles. Se posso fare un inciso, allora vorrei capire come mai nello statuto di STX è consentito che ci sia il governo francese che possa avere la prelazione sui cantieri navali. Mi sembra che siamo nello stesso campo della Golden Share, che non piaceva a Bruxelles se utilizzata nei confronti di soggetti europei, visto che ai coreani non è stato posto un bel niente, mi chiedo quale sia il discorso. Ma comunque, tornando al discorso Telecom e del Golden Power, il Golden Power a un certo punto erano due decreti, uno che si applicava soltanto nei confronti degli extracomunitari, soggetti extracomunitari, e un altro che poteva essere applicato in generale. Questi due decreti sono rimasti in piedi in parallelo e non si capiva bene come si applicassero, alla fine sono stati convertiti in legge, diciamo riassumendo un po', nell'accezione comune il discorso può essere applicato soltanto nei confronti dei soggetti extracomunitari. Però l'interpretazione autentica noi non l'abbiamo mai conosciuta, in quanto non è mai stata applicata. Mi sembra di capire Antonella, nei confronti dei soggetti extracomunitari, a meno che non si tratti di questioni di sicurezza nazionale e di difesa? No, nemmeno questo. No. Allora, il punto è come era stata, diciamo così, capita, ma l'interpretazione autentica manca, perché questa regola non è mai stata applicata, questa legge. Quindi l'interpretazione autentica la dà chi l'ha fatta la legge, non gli avvocati di parte, no, direi. Certo. Quindi vediamo che cosa dicono, infatti c'è un'istruttoria in corso appunto per vedere come si applica questa legge. Ma il discorso, scusami, è che dicevi... Che cosa potrebbe succedere? La strategicità riguarda il discorso sia dell'infrastruttura, sì, perché è l'arteria di telecomunicazione del paese, l'unica rete nazionale che c'è, e la questione della sicurezza. Nell'accezione comune, ma ripeto, mai approvata sul campo, era che tu potevi soltanto farla valere nei confronti di soggetti fuori. Questo vorrebbe dire che l'antitrust europeo o anche nazionale non può mai intervenire se c'è un'operazione di concentrazione che riguarda due società europee. Non può essere, perché un conto è dire l'esproprio, la nazionalizzazione, è un conto dire che, visto che l'asset è strategico, forse le condizioni le vorrei mettere. Ma quello che potrebbe fare il governo eventualmente, Antonella, non lo sappiamo, non sappiamo nemmeno se può sterilizzare, per esempio, i diritti di voto di Bolloré. Allora, io posso fare una supposizione. Comunque si tratta di un soggetto straniero, ma se addirittura viene riunita per la prima volta, diciamo per un caso pratico, la commissione su poteri speciali del governo, vuol dire, e se c'è un dubbio, perché non c'è ancora la risposta, se c'è un istruttore che durerà un mese, vuol dire che il dubbio applicativo c'è anche all'interno del governo. Chiaramente. Non essendo stata fatta. Quindi non puoi già dire cosa può fare. Potresti dire cosa non può fare. Sì. Probabilmente non può nazionalizzare o espropriare la rete. La rete Telecom, ecco, certo. Ma se non so, si potrebbe dire non di certo cosa si può fare, ma cosa è, cosa si può ipotizzare, quello ci si può anche provare, ecco. Sì. Faccio un esempio, l'Agicom, l'autorità delle comunicazioni, ha dei poteri tecnici che riguardano il piano concorrenziale. Diciamo, se c'è un discorso di applicazione dello spirito della legge, che non può essere per l'appunto ti impedisco ma le condizioni le potrebbe anche fissare la GICON, che ha i poteri per farlo. Sì, per esempio, e questo potrebbe essere un esempio del cosiddetto dell'esercizio del Golden Power che finora non è stato esercitato. Vedremo cosa sarà anche di questa vicenda. Intanto io ti ringrazio. Grazie dunque ad Antonella Olivieri del Sole 24 Ore per questo punto. Ci scrive un ascoltatore, ma la maggioranza dei Fincantieri è di Stato? Sì, la maggioranza dei Fincantieri è di Stato ed è uno dei dubbi che si stanno ponendo molti, cioè quelli più morbidi con la posizione di Macron, con la posizione assunta da Macron, dicono esattamente questo: guardate, Fincantieri è di Stato, non si vede perché Macron non possa impedire una fusione di questo genere. Avremo modo di parlarne anche nelle prossime settimane, c'è questa scadenza di fine settembre dell'incontro del vertice bilaterale e vedremo come andrà. Passiamo a parlare di banche. Di banche e di borse. No. Lo dico all'ascoltatore che scrive su WhatsApp: Golden Power, non Golden Shower, non è la zanzara, è Focus Economia. Borse che chiudono bene, più 1,02% il FTSE MIB, più 0,91% il FTSE All Share, bene Parigi più 0,46%, giù Francoforte dello 0,22%, Londra che guadagna lo 0,89% con la sterlina ai minimi da 9 mesi sul dollaro, Dow Jones in perfetto pareggio, sopra i 22.000 punti comunque, Standard & Poor's 500 in calo dello 0,22%, iniziando dai titoli negativi Tenaris, meno 7,24%, oggi ha diffuso i conti, ma c'è anche Credit Suisse che insomma che è negativa sul titolo. Giù Poste del 2,78, Campari dell'1,83, Prismian dell'1,72, Brembo che cede l'1,08%, Fineco Bank che cede lo 0,88, Saipem lo 0,8, Banca Mediolanum altrettanto, Luxottica mezzo punto percentuale, Banca Generali mezzo punto percentuale. Ferrari in recupero rispetto a ieri, più 2,34%, BPR che guadagna l'1,94%, Ubibanca l'1,7%, Buzzi Unicem l'1,6%, bene Uxnet a Portede che guadagna l'1,5%, Mediobanca l'1,4%, Enel l'1,2%, CNH l'1,19%. Ma a dominare il listino oggi è senza dubbio Unicredit, più 7,16%, oggi ha presentato i conti Marco Ferrando del Sole 24 Ore in studio con noi. Marco, ciao, buonasera. Buonasera a voi, ciao Simone. E a questo punto abbiamo in questa settimana i conti delle due più grandi banche italiane. Che cosa ci raccontano? Perché l'altro giorno è stata la volta d'Intesa. Che cosa ci raccontano, Marco? Ma ci raccontano innanzitutto che continua il testa a testa, nel senso che sembra quasi a farlo apposta, prima Intesa, che è solitamente la prima a dare i dati, e poi Unicredit, si tallonano guardando l'ultima riga di bilancio. Entrambe stanno intorno ai 2 miliardi, a onor del vero Unicredit un passo in più, visto che oggi ha chiuso il semestre a un passo dai 2 miliardi di utile, pur al netto di alcune poste straordinarie. Quello che ci dice è che il mercato sembra registrare, infatti come dicevi Unicredit miglior titolo, ma anche UBI che darà i conti domani e Biper che sta per darli vanno bene, e che probabilmente sta prendendo forma una stagione un po' più diciamo di maggior sollievo per le banche italiane, nel senso che Unicredit oggi ha dato due messaggi. Il primo, che è ovviamente positivo, il capitale è migliore delle attese, così come sono migliori delle attese i volumi, in termini di fatturato, quindi di, in particolare di commissioni, ma anche quindi i ricavi in generale, ma anche di costo del rischio, quindi le rettifiche sui crediti deteriorati sono inferiori alle attese. E questo è il primo messaggio che il mercato ha apprezzato, perché evidentemente ciò che Moustier intendeva fare lo sta facendo e il contesto macro consente di farlo. Il secondo messaggio, che apparentemente era di segno negativo, Moustier ha detto: pagheremo dividendi, ma nella parte bassa della forchetta che aveva dichiarato inizialmente. Lui ha sempre detto: noi distribuiremo in termini di cedole tra il 20 e il 50% dell'utile netto nell'arco del piano. Il primo anno, cioè il 17, saremo nella parte bassa. Oggi ha aggiunto che rimarrà nella parte bassa, quindi verrà distribuito solo il 20% dell'utile netto per tutti i prossimi tre anni, esercizio in corso, più il 18 e più il 19. Ciò nonostante, il mercato ha reagito positivamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che più che del dividendo interessa evidentemente conoscere le prospettive di crescita della qualità degli attivi, da cui evidentemente si ritiene che possa esserci una crescita del titolo e quindi soddisfazioni per gli azionisti. Questo appunto dimostra che il mercato rimane abbastanza ottimista sulle possibilità di sviluppo di medio, diciamo di medio, non sbilanciamoci sul lungo, di medio periodo per le banche italiane. Così credo si spiega anche l'andamento positivo di altri titoli bancari. Adesso, per non andare troppo in ritardo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. E poi a chiudere, visto che ti ho qua, Marco, è agosto, siamo qua, abbiamo poca pubblicità e quindi molto spazio. Ti spolpo e parliamo anche di MPS, tra un attimo. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presento Focus Economia. Ed eccoci di nuovo a chiudere con il nostro Marco Ferrando del Sole 24 Ore, e parlando di banche abbiamo parlato di Intesa, abbiamo parlato di Unicredit, veniamo a Monte dei Paschi. Il 28 luglio sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due decreti che consentiranno l'attuazione della ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi, quindi diciamo siamo là al momento nel quale lo Stato diventerà l'effettivo padrone di Monte dei Paschi, no Marco? Sì, siamo in attesa del bonifico da 4 miliardi circa da parte del 3 miliardi e mezzo con Fonteoglio di Intesa sulle Venete, del bonifico che di fatto renderà il tesoro azionista di controllo del Monte. Non è un passaggio irrilevante perché il trasferimento delle risorse, di fatto è l'aumento precauzionale a carico dello Stato, è necessario per il CDA per approvare la semestrale. In realtà una riunione del board era già in agenda per questa settimana, si aspetta l'arrivo del malloppo, diciamo così, più un passaggio anche in BCE, perché c'è tutta una serie di meccanismi contabili che richiedono un avallo, tanto per cambiare di Francoforte. Quindi il Monte, per dare continuità alla situazione di incertezza di questi mesi, è ancora una volta appeso da un lato al suo futuro azionista di controllo, al Tesoro, dall'altro a Francoforte, per poter finalmente approvare una semestrale che nei fatti è già pronta da diversi giorni nei cassetti e che recherà le pulizie di bilancio funzionali alla tanto attesa maxi cartolarizzazione da 27 miliardi di NPL, che quindi ripulirà completamente, perlomeno delle sofferenze che sono i crediti più deteriorati, il bilancio della banca, e dovrebbe iniziare la nuova stagione all'insegna del controllo pubblico. Si spera di un ritorno alla redditività il più veloce possibile, perché lo Stato, così come è entrato, deve uscire ricevendo sì, in cambio la maggior somma possibile, perché tutto ciò che mancherà tra i 4 miliardi messi adesso più quelli aggiunti a rimborso degli azionisti o meglio degli obbligazionisti e quello che incasserà dalla vendita lo metteremo noi, cioè i contribuenti. Quindi insomma, più in fretta il Monte torna a fare utili, meglio sì, per tutti. Sì, su questo fronte mi sembra, ma era politicamente inevitabile che fosse così. Nell'intervista di oggi con voi, con il Sole 24 Ore, il ministro Padoan si dichiara abbastanza tranquillo, anche più in generale sul sistema bancario, cioè sembra vedere una maggiore solidità. Ripeto, è anche inevitabile politicamente che sia così, insomma, no? Sì, giustamente Padoan dice quello che deve dire. Oggettivamente, lo dicevamo anche prima noi, i segnali che arrivano oggi da Unicredit su un'altra partita, che però imparentata con quella del Monte, perché sono banche comunque zavorrate oggi lo sono molto di meno, di crediti deteriorati. Il mercato sta cambiando la sua percezione. Padoan giustamente rivendica il merito del Monte, che comunque è una partita che è stata risolta, delle Venete, anche qui i conti finali li faremo tra alcuni anni, conosceremo quanto lo Stato rincasserà di quello che ha prestato o al Monte o a Intesa, però certo l'emergenza è stata superata. C'è ancora, volendo, un capitolo aperto, quello sulle tre casse del Centro Italia, Rimini, Cesena, sì, San Miniato, sono piccole, ma comunque insomma quelle finiranno probabilmente a Cariparma dopo l'estate. I focolai di crisi sono sopiti. Speriamo che rimanga così. Grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Dalla banca passiamo a parlare dell'industria, l'industria chimica. La notizia viene pubblicata oggi proprio dal Sole 24 Ore, la Cassa Depositi e Prestiti, che tra l'altro annuncia oggi i suoi risultati con un utile netto del primo semestre che sale a 2,5 miliardi, starebbe pensando di far da regista ad un'operazione che realizzi un polo chimico italiano di grandi dimensioni, in grado di competere con l'estero, ovviamente con Francia e Germania, manco a dirlo, ma anche con gli asiatici che stanno arrivando. Paolo Brico del Sole 24 Ore, ciao Paolo. Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, quale sarebbe, che progetto sarebbe? Sì, si tratta di uno scoop del nostro Carlo Festa, pubblicato sul Sole 24 Ore di oggi. L'idea è quella di mettere insieme attività di aziende, imprese diverse, un'impresa familiare come Mossi e Ghisolfi, un'attività italiana, una subsidiary che è Polint, e soprattutto Versalis, che è la vecchia, che è la chimica di Eni, in maniera tale da costruire un player che non sia soltanto un medium player, come sono oggi questi soggetti presi distintamente, ma un big player, appunto in grado di andare a confrontarsi con i grandi gruppi asiatici e i grandi gruppi tedeschi e americani. Ricordiamo, abbiamo dimensioni straordinariamente più piccole rispetto agli altri, che in settori come la chimica avanzata, la chimica pura, rendono ogni passo un rischio. Basta sbagliare un anno e i bilanci si impiombano, i fatturati crollano, i debiti esplodono. La chimica è un settore straordinariamente strategico, ma anche straordinariamente rischioso. Esatto. Anche perché immagino che è un settore nel quale gli investimenti in ricerca sono molto forti. Sono enormi. Questo richiede grandi dimensioni, perché appunto se puoi concentrare risorse solo su uno o due progetti e sbagli uno di questi uno o due progetti, hai chiuso, sei finito. Tra l'altro, proprio tu Paolo oggi firmi un commento a questa vicenda, ma firmi anche un servizio che ci ricorda questa analisi dell'ufficio studi di Mediobanca. Sì. Il titolo è Impresa piccola, paese debole, che è esattamente quello di cui stiamo parlando, no? Sì, è proprio così. Il titolo del nostro quotidiano è volutamente duro, secco, anche provocatorio. Sono partito dall'analisi di Mediobanca uscita qualche giorno fa sulle grandi imprese italiane, che ha mostrato la rarità delle imprese italiane e la minore dimensione, quindi non solo come numero ma anche come diciamo fatturato consolidato e risultati consolidati rispetto alle omologhe della Francia, della Germania e del resto dell'Europa. Ho compiuto un ulteriore approfondimento usando altri dati, interpellando altri centri studi, e il punto è proprio quello. Non c'è soltanto un paesaggio industriale segnato da una maggiore rarità delle grandi imprese, le imprese che fatturano 3, 4, 5, 10 miliardi di euro o più, ma c'è anche una minore forza strategica. Ad esempio, e ho riportato un'analisi della società di consulenza Prometeia, che ha fatto apposta per il Sole 24 Ore uno studio su circa 2000 imprese europee, da cui viene fuori che nella manifattura andiamo molto bene, noi lo sappiamo e molto spesso lo scriviamo sul Sole 24 Ore, la nostra manifattura è una dei dorsali del paese, e se il paese non è saltato per aria con tutti i suoi problemi è grazie alle nostre imprese, ma allo stesso tempo abbiamo una carica innovativa, una forza innovativa molto molto inferiore rispetto a quelle degli altri paesi. Oggi i brevetti sono fondamentali, permettono di controllare pezzi del valore aggiunto, permettono di esercitare influenza strategica sulla vita nostra e degli altri cittadini europei e mondiali. Ne abbiamo troppo pochi. E come avete sentito, il discorso si collega perfettamente a quello che abbiamo fatto sulla chimica. Grazie a Paolo Bricco del Sole 24 Ore, Mauro Del Corno in assistenza in redazione, Pietro Lacorte in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. Libera la voglia di fare.